puntata di questo bellissimo libro che tu hai scritto, diciamo, sotto ispirazione, secondo me, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegan, dell'Opus Dei di Milano. Acquerelli di Anna Maria Trevisan, Edizioni Paoline. Siamo arrivati alla 20ª puntata e siamo a pagina 165, 16° capitolo, Giuseppe nella vita pubblica di Gesù. A te la parola. Bene, grazie. Ecco, quindi siamo arrivati effettivamente al penultimo capitolo di questo libro e di fatto è un diciamo Giuseppe nell'ultimo precedente capitolo che abbiamo letto, abbiamo visto la morte di Giuseppe insieme con Gesù e con Maria, quella immagine tradizionale, no, di Giuseppe che muore, per questo poi è il patrono della buona morte, no, perché ha accanto a sé Maria e Gesù, sì, nella tradizione che abbiamo. E allora adesso, ecco, io pensavo proprio, pensando a questa trasmissione, pensavo che spesso i libri su Giuseppe si finiscono con i 12 anni di Gesù, cioè con il ritrovamento di Gesù al Tempio, no? Un po' perché il Vangelo effettivamente è l'ultimo episodio in cui Giuseppe è protagonista, cioè è presente. Però è vero anche che nella vita pubblica di Gesù è presente se non altro come citazione, cioè è citato Giuseppe, no? È citato come quando si parla di Gesù, cioè, ma non è quel costui il figlio dell'artigiano, no? E non conosciamo appunto il suo padre, sua madre. Oppure vi ricordate quando nel Vangelo di Giovanni il Natanaele viene chiamato da Filippo, e Filippo, per portarlo da Gesù, Filippo gli dice: abbiamo trovato Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe di Nazareth, no? E quindi evidentemente Giuseppe da qualche punto di vista è presente nel Vangelo come citazione, tanto che alcuni potrebbero addirittura pensare che fosse ancora vivo, no? Poi però a Cana non c'è, e quindi vabbè, io ho scelto nel mio libro di accettare quella che è la traduzione forse più diffusa, in cui Giuseppe sarebbe morto prima della vita pubblica di Gesù. Però questa presenza comunque come citazione nel momento in cui Gesù si manifesta al mondo e al suo popolo, no, comincia a manifestare il suo mistero, mi ha fatto pensare, sarebbe bello appunto aggiungere un capitolo su Giuseppe nella vita pubblica di Gesù, e poi dopo, quello che sarà l'ultimo capitolo, in modo particolare nel mistero pasquale, cioè quei giorni decisivi per la nostra salvezza, no? E naturalmente ho voluto continuare lo stile degli altri capitoli, solo che qui Giuseppe è già morto, per cui di fatto chi parla in questi due ultimi capitoli è Maria, no? È solo Maria, anche se poi la faccio dialogare abbastanza con Gesù, soprattutto nell'ultimo. Ecco, io naturalmente ho nel rileggere questo capitolo, pensando a questa trasmissione, a questa lettura commentata a Radio Maria, mi sono accorto che questo capitolo è risultato un po' breve, no? E se lo dovessi riscrivere direi, ci aggiungerei altri particolari. L'ho fatto un po' in modo sintetico, forse anche un po' perché sapevo che stavo già sforando il numero di pagine e di caratteri, no, che l'editore mi aveva dato, anche se poi sono stati ben felici di accogliere tutto quello che avevo scritto, e poi forse c'era anche la fretta di concludere il libro, perché urgeva di poterlo pubblicare per arrivare al mese di maggio di quest'anno, no? Quando è stato pubblicato, era nelle librerie, no? Però ecco, questo per dirvi che su questo tema della vita pubblica di Gesù è ovvio che io vado molto sulla fantasia, diciamo così, no? Cioè penso come Giuseppe è presente tra le righe del Vangelo, no? Quindi più che non mi soffermo su quei particolari in cui Giuseppe viene citato appunto dagli apostoli, dalla gente di Nazareth, ma piuttosto nel cuore di Maria, come lei vede Giuseppe nelle cose che Gesù fa e che Gesù dice, no? E quindi ho seguito un po' questa linea del mondo interiore, no, di Maria. In qualche modo è vedere Giuseppe nella vita pubblica di Gesù attraverso sempre questo filtro che è la chiave di lettura di tutto il libro, che è la nostra storia d'amore, cioè quindi Maria, la storia d'amore con Giuseppe, che in qualche modo prosegue anche nella sua vedovanza, quindi in qualche modo è una testimonianza dell'amore di Maria nella vedovanza per Giuseppe attraverso la contemplazione di questo figlio che finalmente, quando è giunta la sua ora, comincia la sua predicazione, i suoi miracoli, i suoi segni e quindi la sua chiamata alla conversione e tutto quello che noi sappiamo dal Vangelo. E, ecco, allora, bene, adesso io quindi comincio, quindi in questo capitolo, quindi rispetto ai precedenti, ci troviamo solo con la testimonianza di Maria, ovviamente, no? Giuseppe è già defunto. Vediamo, e Maria quindi comincia così. Potete immaginare quanto mi mancasse Giuseppe nella vita pubblica di Gesù. Ecco, faccio anche una parentesi qui perché, come sapete da questo libro e forse anche chi ha letto il libro precedente su Maria, io penso che Maria sia molto presente nella vita pubblica di Gesù, al di là di quei piccoli rari episodi che l'Angelo cita esplicitamente, no? Quindi più che pensarla così da sola a Nazareth senza sapere dov'è Gesù e che cosa sta facendo, la immagino molto vicino a lui, e questo è un po' per tenere presente sullo sfondo, no? Anche se ovviamente anche su questo campo, su questo tema sono libere tutte le opinioni, no? Ecco, quindi Maria segue da vicino Gesù e gli manca Giuseppe. Non poterci raccontare la sera quello che era successo durante il giorno, quello che avevamo tante volte sognato, temuto, sperato, non poterci sostenere come sempre, incoraggiare. Ecco, tenete presente questi linguaggi dell'amore tra Maria e Giuseppe, lungo il libro li abbiamo tante volte evidenziati e quindi è comprensibile, mi sembra che sia bellissimo notarlo, come a Maria manchi, no, la presenza di Giuseppe in quei momenti, in quegli anni. Lo facevamo reciprocamente con Gesù, Gesù le aveva promesso, guarda che sarò per te come Giuseppe, ma Giuseppe ci mancava a tutte e due, no? Io lo vedevo nei gesti di Gesù, nelle inflessioni del suo parlare, nelle immagini che usava, e queste sono caratteristiche tipiche, no, di ogni figlio che riflette nel suo essere il padre e non solo anche la madre, e mi piace mettere in evidenza che attraverso gli occhi di Maria, che guarda Gesù, che lo ascolta parlare, lei riconosce tante cose di Giuseppe. Mi viene in mente che un giovane papà che ha letto questo libro poi mi diceva che questo capitolo mi ha colpito molto, perché questo capitolo è quello che l'ha commosso di più, proprio perché si è reso conto di in qualche modo di quanto è importante il papà, che a volte, soprattutto forse quando i figli sono ancora piccoli, giovani, che la madre è più presente per ovvi motivi nella loro vita, quindi il papà può sentire a volte che il suo ruolo è, come dire, un po' secondario. Invece, leggendo questo capitolo, ha capito come è stato importante Giuseppe anche nell'educazione di Gesù e come è presente nella sua vita, no? E quando Gesù parlò degli uccelli del cielo e dei gigli del campo, di come il padre del cielo li curi, mi ricordai di Giuseppe, che davanti a quel Gesù bambino meravigliato chiudeva le mani dinanzi al suo sguardo e nelle mani c'era un passerotto che lui aveva curato e che ora poteva volare via felice. Ed era ancora Giuseppe che gli faceva notare la meravigliosa eleganza dei gigli del campo che aveva raccolto per me e che profumavano la casa. E così per innumerevoli altri ricordi, no? Vedete, per esempio, questo è un campo nel quale ho pensato, avrei potuto fare altre citazioni, no? Di parabole di Gesù, in cui si vede come lui ha imparato da Giuseppe, ci possiamo immaginare, no? Che abbia imparato da Giuseppe, che tra le tante cose che gli ha insegnato come uomo, evidentemente come Dio, e lui che lo insegna a noi, la, per esempio l'amore per la natura, no? Che è un tema anche oggi molto, molto, molto attuale, no? Che il Papa Francesco ci sta continuamente mettendo in evidenza, come, ecco, attenzione al creato e cura e custodia del creato, no? Tra l'altro ricorderete che proprio Papa Francesco nel giorno dell'inizio del suo pontificato, che era proprio il giorno di San Giuseppe dell'anno 2013, nell'omelia ha messo in evidenza il ruolo di Giuseppe di custode, no? Custode di Maria di Gesù, però anche che poteva in questo senso aiutarci a imparare la custodia del creato che è stato fatto da Dio e messo nelle nostre mani perché noi lo lavorassimo e lo custodissimo. E riconoscevo Giuseppe nelle parabole che Gesù raccontava, nei suoi discorsi, nei suoi proverbi popolari, come ad esempio il regno dei cieli, questa è una frase di Matteo capitolo 13, no? Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Io qui faccio una piccola parentesi perché vi spiego come mi è venuta in mente poi la citazione, la spiegazione che faccio di questo brano. Quando scrissi il libro su Maria, mi mise in evidenza, cosa che ho visto anche in altri autori, che quando che Gesù parla poi, dopo questa cosa sull'uomo che prende insieme, poi dice il re dei segli è simile anche a una donna, no? Una donna che prese, è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Ecco, adesso io, rileggendo quello che ho scritto, mi sono detto, avrei potuto mettere in evidenza tutte e due queste parabole e dire, nelle parole di Maria, guardate, in quel momento Gesù ha pensato a Giuseppe e a me, no? Un uomo che semina il seme nel campo e una donna che prende le misure di farina. Nel libro di Maria c'è lei, no? E come donna che impasta il lievito e che Gesù bambino ammirava mentre lei lavorava, e quindi poi da grande lo ricorda come esempio del regno dei cieli, così come, ecco, se io mi sono inventato questo episodio dell'infanzia di Gesù, e dice Maria, è un episodio dell'infanzia di Gesù, quell'uomo, quello che semina il seme nel piccolo granello di senape nel campo, è Giuseppe. Gesù cresceva e vedeva l'albero crescere con lui. Quando ascoltavo insieme ai discepoli, ecco quel punto, quindi questo è, cioè mi sono immaginato che quell'immagine del regno dei cieli come l'uomo che semina il seme e che poi diventa dal piccolo seme diventa un albero grande e gli uccelli vengono a fare il nido tra i suoi rami, che è un'immagine della Chiesa, no? Un'immagine era qualcosa che nella sua infanzia lui aveva visto proprio attraverso le mani di Giuseppe. Poi anche un'altra cosa che dice Maria, quando ascoltavo insieme ai discepoli e a tanta gente sul monte il suo discorso sulle beatitudini, mi commuovevo fino alle lacrime perché lo vedevo tracciare un meraviglioso ritratto di Giuseppe, era proprio così, povero in spirito, consolato nel pianto, mite, con fame e sete di giustizia, misericordioso, puro di cuore, operatore di pace, perseguitato per la giustizia, insultato a causa di Gesù, e ora con una grande ricompensa nei cieli. Devo dire che questa applicazione a Giuseppe delle beatitudini, non so se l'ho letto da qualche parte, comunque a me è venuto in mente proprio scrivendo questo capitolo, e più ci penso più mi sembra, cioè è ovvio che me lo invento, che Maria ha ascoltato questo discorso e ha pensato a Giuseppe, però in effetti se noi proviamo pensando a Giuseppe e leggiamo, adesso ce l'ho qua sotto mano, c'è proprio quel brano del Vangelo che è un po' sintetizzato, beati i poveri in spirito perché di essere nei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno in eredità la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per la giustizia, io li ho messo i perseguitati per il nome di Gesù perché pensiamo a tutto quello che Giuseppe ha dovuto soffrire per Gesù, no? Perché di essere il regno dei cieli, e poi beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, in fondo rallegratevi dei risultati perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti perseguitano i profeti che furono prima di voi, no? Quindi questa mi pare che proprio quasi letteralmente questi beatitudini si possono applicare a Giuseppe, quindi io mi immagino che Maria ha un sussulto di commozione quando ascolta queste parole e pensa a Giuseppe, no? E spesso riascoltavo nei discorsi di Gesù insegnamenti che Giuseppe gli aveva dato sul lavoro, no? E come nel caso dell'elemosina che deve rimanere nascosta, no? Ricordate, no? Non sappia alla destra quello che alla sinistra, e perché quando Giuseppe faceva un lavoro gratuito non voleva che si sapesse, poi nel senso di non mettere in evidenza la sua generosità, ma anche per non umiliare quelle persone a cui lui faceva questo favore, che probabilmente poi faceva tante volte, quindi poi la gente se lo diceva, no? E in effetti anche forse questo capitolo l'ho sintetizzato un po' perché anche lungo tutto il libro qualche volta vi ricordate pensavamo alla vita pubblica di Gesù, per esempio proprio quando Giuseppe insegnava il lavoro a Gesù, no? E quando si diceva, ecco, quando tutte le volte che Gesù parla di case, no? e di lavoro, in qualche modo attingeva a un'esperienza fatta con Giuseppe, no? E i padri, continua Maria, di cui Gesù parlava nelle sue parabole e nei suoi esempi, in fondo sono tutti buoni. Allora, è vero che Gesù ovviamente attraverso quei padri delle parabole con cui illustra il Regno dei Cieli sta parlando di Dio Padre, no? Se pensiamo alla grande figura del padre misericordioso, no? Della parola dei due figli, però altre volte fa accenni più brevi, no? Cioè, ecco, un padre che aveva due figli, disse al primo vai a lavorare, gli disse di no, poi andò, e disse all'altro vai a lavorare, gli disse di sì, poi non andò, ecco chi è che ha fatto la volontà del padre. E altre parabole, no? In cui c'è il padre con due figli. E Di Maria considera questo, no? In fondo sono tutti buoni, lasciano al figlio l'eredità, danno pani e pesci al figlio che glieli chiede. E quando ne parlava dicevo tra me, ecco un riflesso in Gesù della bontà di Giuseppe come padre. E poi passo a un altro argomento in cui Maria, insomma, pensa a Giuseppe quando ascolta Gesù, quando lo segue, no? Conoscevo bene tutte le donne che seguivano Gesù e lo servivano con i loro beni. Vi ricordate, San Luca ne parla, ecco, sono già capitolo ottavo, no? Maddalena, Susanna, Giovanna, Salome e tante altre. E la mamma di Giacomo e di Giovanni, ecco. E pensavo a come sarebbe stato felice e orgoglioso Giuseppe di vedere questa novità di Gesù rispetto agli usi della sinagoga. E la mia mente, e questo è un episodio che ho raccontato, che ho messo nell'infanzia di Gesù, ma che Gesù vede che le donne sono un po' messe da parte. E la mia mente andava a lui tutte le volte che Gesù innovava con i suoi discorsi, con i suoi gesti, quelle abitudini irrigidite del nostro popolo, che tanto facevano soffrire Giuseppe, no? Si guariva il giorno di sabato o dichiarava puri tutti gli alimenti, oppure quando avvicinava i lebbrosi. Io pensavo a Giuseppe, perché erano cose che Giuseppe anche, ecco, soffriva, no? E quando, ecco, anche un po' aiutava Gesù a comprendere dal punto di vista umano queste cose. E lo stesso quando gli toccò il mantello. Quella donna che soffriva di perdita di sangue da 12 anni e morì all'istante, e lui la volle a ogni costo conoscere e guardare, voleva farle vedere che non era impura e che toccandolo non lo rendeva impuro per il fatto di perdere sangue, voleva rendere pubblica quella situazione e quella guarigione, che tutti sapessero. Ecco, quindi senz'altro mi ricordate quel brano del Vangelo di Santo Marco, lo racconta con tanti dettagli, Gesù sente che una forca è uscita dal suo corpo e la donna sente che è guarita, però lui vuole conoscerla, vuole guardarla negli occhi, vuole anche far vedere a tutti che questa donna può rientrare in società, no? Non essere allontanata da tutti perché ha quella malattia, e ecco, che tutti sapessero. So che Gesù, quando faceva quella guarigione, pensava a me e alla mia purificazione al Tempio dopo il parto. Ricordate che anche in quell'epoca c'è un accenno nel libro che a Giuseppe, insomma, quella cosa gli costava molto, dice, ecco, che Maria dovesse purificarsi, ne conosceva tutta la santità, ma, e a tutte le donne. Sorridevo a Gesù, a quella donna, e in cuor mio anche a Giuseppe, no? Immagino che Maria, la vita pubblica di Gesù, ha aiutato tanto anche proprio con tutte queste donne che lo seguivano, con amicizia, a spiegargli le cose, insomma, ad aiutarli in tutti i modi, e quindi quando ha visto quel miracolo, immagino che potesse essere lì, della dell'emorroissa, e gli sono tornate in mente tutte queste cose. È ovvio che io penso, ecco, ho cercato di mettermi un po' nel cuore di una madre, forse le mamme capiscono bene questo scritto, nel senso che sanno quanto c'è nel loro cuore, appunto, quanto sanno conservare nel cuore tutte le cose, e Maria in modo particolare, no? Per cui in un singolo episodio della vita pubblica di Gesù lei si ricorda, ecco, ha conservato nel cuore tutta la sua vita, tutto quello che è stata anche la vita con Giuseppe, tutti i discorsi che si sono fatti, e quindi tutti i sogni, no, che hanno sognato insieme. In fondo nella vita pubblica di Gesù era un po' come la terra promessa per Mosè, no? Quindi io penso a Giuseppe come a Mosè, che ecco, ha accompagnato il popolo fino alla terra promessa, l'ha potuta vedere da lontano, ma non è potuto entrare, no? Quindi Giuseppe, ecco, come grande patriarca, accompagna Gesù lungo la vita, lo educa in tutti i modi, e poi forse quando, come ci dice appunto questa antica tradizione, quando è il momento della vita pubblica, il Signore lo chiama a sé, e quindi lui non vede, però ovviamente nel cuore di Dio, no? Nella vita eterna può contemplare queste cose, e Maria, che invece le vive insieme con Gesù, porta nel cuore di Giuseppe, no? Questo amore per Giuseppe che ha caratterizzato tutta la sua vita, e su cui stiamo meditando, no? Attraverso questo racconto, no? Questo libro, è stato presente, a mio parere, anche nella vita pubblica di Gesù. E quindi io direi anche questo capitolo finisce qui, è molto breve, però mi viene da dire ai lettori di questo libro, ecco, voi, se lo desiderate, nel leggere il Vangelo potete scoprire altri aspetti, no? Con la vostra immaginazione, in cui è presente Giuseppe nelle parole e nei gesti di Gesù lungo il Vangelo. Bellissimo. Allora, la prossima volta sarà l'ultima puntata, vero? La puntata di questo libro, sì. Sarà l'ultima puntata sul mistero pasquale di Gesù. Giuseppe nel mistero pasquale di Gesù. Benissimo. E poi si passerà a un libro sulla Madonna, vero? Eh sì, perché evidentemente adesso, avendo letto questo libro su Giuseppe Maria, possiamo leggere insieme quello che fu un po' la preparazione di questo libro, che è il libro su Maria, no? Maria, il mio cuore svelato, che pubblicai un paio di anni fa, in cui c'è Maria che anche lì parla molto di Giuseppe, però è solo lei che racconta un po' la sua vita a partire dalle parole ricordate dell'annuncio dell'angelo. Bene, grazie infinite Don Andrea per tutte queste cose che ci proponi, che ci fanno meditare, ma anche crescere nella fede. Intanto una bella benedizione su tutti gli ascoltatori. Sì, molto volentieri. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione di Giuseppe, di Maria, di San José Maria, e di tutti i santi a cui voi siete devoti, e discenda su di voi, su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, le loro famiglie, i loro problemi, le loro gioie, e rimanga sempre. Amen. Allora continua a pregare per noi, ricordarci nella messa, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per questo libro su Maria, Il mio cuore svelato. Grazie ancora di tutto, a presto, a presto. Grazie, a presto, ciao. Pronto, Don Ennio? Pronto, Don Tino. Buonasera, Don Ennio. Buonasera.